Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Personalmente ritengo una violenza costringere bambini e ragazzi che non possiedono ancora una sufficiente capacità di valutazione critica a studiare una religione. Bisognerebbe invece parlare agli studenti delle varie confessioni religiose e dei disastri causati dagli integralismi nell'epoca attuale e nelle varie epoche storiche. Bisogna inculcare loro i valori della convivenza civile, il rispetto degli altri. Io vorrei che a mio figlio non fosse insegnata alcuna religione, ma non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di voler imporre ad altri le mie convinzioni. Franco, provincia di Forlì. L'Italia probabilmente è piena zeppa di persone che ricoprono ruoli di primaria importanza per la società, ma che per un verso o per l'altro non possiedono i requisiti minimi di moralità o professionalità per esercitarli. Sentire il professor Buttiglione minimizzare o quantomeno liquidare come forse inopportuno il fatto che Boffo, direttore dell'organo ufficiale della CEI, avesse patteggiato una condanna per molestie, mi ha fatto abbastanza inorridire. La divisione che separa la sfera privata da quella professionale per tutti i cittadini normali è molto sottile, se non addirittura inesistente. Difficilmente un cittadino con una pena patteggiata per furto può concorrere in polizia o in qualsiasi ente militare. Difficilmente un ragioniere che ha patteggiato una pena per truffa trova occupazione in ambito amministrativo di una qualsiasi azienda. Credo che qualsiasi padre di famiglia sarebbe a buona ragione preoccupato nel sapere che un professore di suo figlio sia stato condannato per molestie. In questa stessa ottica mi viene da riflettere su un altro grosso dubbio che mi attanaglia. L'Italia soffre ormai da 20 anni di alcuni mali endemici: evasione fiscale, mafia, invecchiamento della popolazione e assenza di qualsiasi politica seria sulla famiglia. Ma per caso non è che i nostri legislatori siano per la stragrande maggioranza evasori fiscali, collusi con la mafia e incalliti marchettari, per i quali la famiglia è solo una voce negativa di bilancio aziendale? Comunque, per quanto riguarda il signor Boffo, vi pregherei di tranquillizzare tutti gli ascoltatori. Per la prossima campagna elettorale ho due certezze: Boffo candidato con l'UDC e la signora Patrizia Daddario candidata con il PD. In Italia solo l'immondizia non si ricicla. Angelo, Cagliari. Riguardo al problema se sia giusto o meno che un premier racconti barzellette, vi posso assicurare che alla gente non gliene frega niente. Posso riportare la mia esperienza di domenica scorsa. Sono andato all'Aquila. Lì i cantieri per la ricostruzione procedono speditamente e parlando con la gente mi sono reso conto che, nonostante l'immensa tragedia, non si sono sentiti trascurati dal governo e vedono in Berlusconi un personaggio che non racconta solo le barzellette. Osvaldo. Sono un piccolo imprenditore e non nascondo che sono estremamente preoccupato per il futuro della mia impresa. Forse sarò stato un pessimo imprenditore, ma non credo di essere stato disonesto. Tutti i soldi che avevo, e anche qualcosa di più, li ho impiegati in azienda. Quindi non ho altra possibilità che aspettare di vedere cosa mi riserverà il futuro. Spesso, leggendo i giornali, rimango perplesso dalle esternazioni del nostro ministro dell'economia. Tralasciando il fatto che il giorno del decreto per il rientro del capitale dall'estero io ho pagato una multa di 1.000 euro per tasse pagate nel 2005 in ritardo, credo di un giorno, ed evitando anche di parlare del click day, che sulla legge dell'innovazione che sembra aver favorito grosse associazioni o grandi imprese, forse era troppo scomodo dividere in parti uguali gli aventi diritto, credo che sull'ultima esternazione dei Tremonti Bond abbiamo raggiunto il limite della credibilità, ossia ci si lamenta dell'intermediario scelto. Vista ormai la moda dei bond che imperversa, non poteva direttamente il ministro emettere un bond a favore delle piccole e medie imprese e distribuire direttamente i fondi attraverso i comitati di garanzia delle associazioni? Andrea. Questa sarà ricordata anche come l'estate delle proteste spettacolarizzate. Io credo che le proteste dei dipendenti di alcune aziende in difficoltà, anche le più accese o eccentriche, siano legittime solo se fatte rispettando le leggi. Ritengo personalmente un'eccentricità tutta italiana che il prefetto, garante l'ordine pubblico, tratti con le parti in causa, dipendenti e azienda, per la soluzione della situazione lavorativa ed economica, come è avvenuto il mese scorso a Torino. Essendo un'economia, fino a prova contraria, basata sul libero mercato, non capisco come, con che poteri e a che titolo il prefetto di Torino si sia inserito nella trattativa sulla vendita di una nota azienda della città. La bontà delle intenzioni del prefetto non le metto in dubbio, né questiono sulla loro utilità, ma creano un precedente antilibero mercato. Infatti, da quel momento in poi, qualsiasi diatriba tra azienda e dipendenti pretenderà la mediazione del prefetto della città in cui si svolge. Ciò porterà a un'economia sempre più dirigista da parte delle istituzioni, quindi sempre meno incentrata sul libero mercato. Il prefetto si deve accertare che nessuna delle due parti violi le leggi o provochi disordini al normale vivere civile. Ma si deve del tutto astenere dall'essere coinvolto anche solo mediaticamente nella trattativa sindacale, economica o di gestione, nella concretezza degli accordi economici. Ciò gli viene imposto dal suo ruolo, istituzione in quanto tale super partes che si occupa dell'applicazione della legge e del mantenimento dell'ordine pubblico e null'altro. Le diatribe non lo devono riguardare. In una situazione economica difficile come questa, in un paese come l'Italia in cui la melodrammatica è di casa mentre la pragmaticità è bandita, le istituzioni devono rimanere arbitri del campo di gioco e non giocatori attivi in economia e nelle contese sindacali. Mi stupisco peraltro che sia io, un uomo di sinistra per quanto moderato, ad appellarmi alla funzione delle istituzioni. Il Premier, il Ministro delle Finanze, il Ministro del Welfare, cosa ne pensano di iniziative di questo tipo? Secondo loro, è libero mercato questo? Nessun organo di stampa, tra quelli che ho sentito, ha posto questa domanda alle autorità coinvolte nelle trattative di Torino. Ciò mi fa pensare che il dirigismo abbia più discepoli del libero mercato, regolamentato e non selvaggio, ma libero. Massimiliano. Mi chiedo come mai si parli tanto di raccolta differenziata e poi in molte confezioni ci siano parti con più materiali, vedi coperchi o scatole fatte di cartone e plastica insieme. Per aiutare la gente a fare della raccolta differenziata, non sarebbe il caso di sollecitare chi di dovere per far sì che tutte le confezioni dei prodotti siano fatte di un solo materiale, ad esempio solo cartone o solo plastica? Carlo. Egregio direttore, qualche giorno fa mi trovavo alla stazione ferroviaria di Camogli ed è stato veramente incredibile vedere che per raggiungere i binari si devono salire due rampe di scale piuttosto ripide, disagio che si aggiunge alla secolare difficoltà di accedere ai vagoni dei nostri treni, troppo alti rispetto alle banchine. Puoi immaginare la difficoltà di viaggiare per una persona con bambino e passeggino al seguito o le difficoltà degli anziani con o senza valigie o addirittura dei disabili? Io dovevo accompagnare figlia e nipotino, e tra i viaggiatori c'erano due anziani turisti inglesi con valigie. Li si vedeva abbastanza in apprensione all'avvicinarsi del treno e li abbiamo aiutati al momento di salire sul convoglio. In altri paesi si può salire sui treni senza superare ostacoli di sorta e nelle stazioni c'è, ove occorre, un ascensore per le persone in difficoltà. Perché qui da noi è così difficile uscire dalla preistoria dei trasporti? Le sarei molto grata se il vostro giornale potesse sensibilizzare la gente e gli amministratori pubblici su questo problema. In fondo, in certe situazioni, sarebbe sufficiente prevedere l'utilizzo anche di una semplice pedana mobile. La ringrazio fin d'ora con le parole che mi sono sentita rivolgere dai due turisti. God bless you. Diana. A proposito di costo della vita e gabbie salariali, c'era una volta un tizio bene in carne. Il re l'aveva molto in simpatia e gli dava sempre più da mangiare. E c'era Caio, gracile e anemico, a cui il re riduceva il pasto di giorno in giorno e prometteva di ridurlo sempre più. Tizio, al dilatarsi, mostrava necessità crescenti, mentre a Caio i bisogni si affievolivano sempre più. Lo squilibrio, accentuandosi, finì col danneggiare entrambi. A parità di offerta, il costo della vita è funzione diretta della domanda, che a sua volta dipende dal reddito disponibile. Meno soldi si hanno in tasca, specialmente se si prevede di averne ancora meno in futuro, minore è la propensione al consumo, minore sarà la tensione sul costo della vita, e non viceversa. Per colmare il divario nord-sud, quindi, ben vengano le gabbie salariali. Più salario al sud, soprattutto più fiducia per far crescere domanda, propensione a spendere e quel che ne consegue. Al nord, la corrente alimentazione. A giudicare dalla dinamica dei prezzi al consumo, sembra già a livelli soddisfacenti. Ciro, provincia di Napoli. Non ho mai seguito i reality in televisione, perché dai piccoli spezzoni dei promo che li pubblicizzano emergono sempre liti, scontri, invidie, scarne e fastidiose discussioni fra i partecipanti. Ma si sa che l'ascolto è facilitato da questi falsi contrasti, creati ad arte per catturare l'attenzione e l'interesse. Ho l'impressione che ora anche i giornali, i quotidiani, i politici stiano seguendo lo stesso stile e gli stessi meccanismi di quei programmi, forse per stimolare le vendite. Pensano di vendere più copie? Pensano di eccitare la nostra curiosità? Credono di seguire la strada giusta nell'interesse dei cittadini? A sentir parlare e a leggere di certi argomenti mi sta venendo quasi una nausea fisica. Sento che si è già andati oltre il sopportabile, ma non c'è segno di alcun cambiamento. Anzi, sembra che le battaglie si stiano inasprendo e, come nelle risse nei film del Far West, non si capisce più chi mena e chi le prende, chi ha iniziato e chi non è coinvolto. Un gran pasticcio. Una vera delusione, per tanti. Lettera firmata. Sono per il principio no taxation without a representation, quindi sono assolutamente favorevole al voto agli immigrati. Altrimenti non tassiamoli e stipuliamo accordi con i paesi di provenienza per fare in modo che il prelievo fiscale, ridotto rispetto a quello che riguarda i cittadini italiani, vada ai paesi di origine, cosa altamente improbabile e complessa. Un po' come i lavoratori overseas del Regno Unito. Pagano meno perché, non essendo fisicamente in Gran Bretagna per la maggior parte dell'anno, non godono dei servizi del regno come i cittadini sempre residenti. Roberto, Milano. Sono nettamente contraria al voto agli immigrati, almeno fino a quando non ci sarà un percorso di integrazione costituito da regole precise e valide per tutto il paese. Le differenze culturali, sociologiche e comportamentali in molti casi sono enormi e questo, in altri paesi, ha già creato guai grossi. C'è forse qualche organismo incaricato di verificare un processo di integrazione? E in quali forme? O dobbiamo aprire le porte senza alcun controllo, senza verificare nemmeno se accettano i nostri principi fondamentali? È vero, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, ma rimangono stranieri e, come gli altri stranieri residenti, devono pagare le tasse ed eventualmente usufruire di quanto lo Stato italiano riserva loro. Anna Maria, Roma. Cara Anna Maria e caro Roberto, le vostre lettere riassumono molto bene la diversità di posizioni che è emersa anche dal nostro sondaggio mercoledì. Indubbiamente è difficile tagliare con un sì o con un no una problematica così complessa e lo dimostrano infatti anche i risultati dello stesso sondaggio che si è concluso con un sostanziale pareggio. Quello che è certo è che non si possono affrontare problemi nuovi, come è diventata l'immigrazione negli ultimi anni, con le vecchie regole sulla cittadinanza e sul diritto di voto. Questo non vuol dire necessariamente passare da una legislazione molto rigida, come l'attuale, a una totale apertura, ma vuol dire che se l'obiettivo deve essere quello dell'integrazione di chi stabilmente ha deciso di vivere in Italia e di accettarne le regole e le consuetudini, allora è necessario fare passi in avanti, perché ai doveri di rispettare le leggi e di pagare le tasse si affianchino gradualmente anche i diritti di partecipare alle scelte politiche e sociali, senza peraltro essere politicamente corretti al punto tale da far sì che per riconoscere la rappresentanza delle minoranze si giunga a indebolire i diritti degli altri, cioè della maggioranza di noi italiani. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.